poco. Andiamo in rec? Fammi un cenno. La voce? Ancora poco a poco, ma di pochissimo, uno spicchio. Prova. Andiamo in rec? Fammi un cenno. Andiamo in rec? Fammi un cenno. Thank you.